L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, come sempre dagli studi di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, l'Europa che viene raccontata quotidianamente da Radio 24 nella sua attualità politica ed economica. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista con questo programma in collaborazione con Euronet Plus. Vi ricordo il portale euronetplus.eu, network di radio europee, tante voci diverse per raccontare la stessa Europa. Le coordinate per trovarci anche sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, ci trovate sia su Facebook sia su Twitter. Bacheche che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi visto che si parla di questa Europa che nasce, che cresce, che cammina, andiamo là a scoprire i confini d'Europa. Dove finisce l'Europa? È la domanda che si è posta Camilla De Maffei, fotografa, autrice di un bellissimo reportage lungo il Danubio, reportage che lei ha iniziato un paio d'anni fa ma che continua. Lei vive a Barcellona ed oggi è in collegamento con noi per raccontarci e farci vedere via radio le sue fotografie. Ciao Camilla, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno Federico. Buongiorno a te. Come mai ti sei messa a caccia di questa Europa e soprattutto dei suoi confini, dei suoi limiti? Sei andata a scoprire dove finisce l'Europa? Ma l'idea del progetto nasce in collaborazione con Viaggiare i Balcani, sì, un'associazione che si dedica al turismo responsabile e culturale nell'Europa del sud-est, nei Balcani appunto. E nasce da un incarico in collaborazione con loro, stavano organizzando una crociera lungo il Danubio e sono stata invitata a partecipare per fotografare l'itinerario che stavano studiando appunto per organizzare questa meravigliosa crociera realizzata in collaborazione con Slow Food. Quindi diciamo che la scusa per cominciare il progetto è stata una scusa lavorativa, completamente casuale, che poi invece mi ha portato ad appassionarmi, da tra l'estrema libertà con cui ho potuto anche lavorare con loro e fare il progetto poi una cosa mia, diciamo. Mm-hmm. La cultura, continuiamo a dire, continuiamo a credere qui all'Altra Europa che sia parte fondamentale appunto della nostra Unione. Andare a vedere i confini significa andare a vedere l'Europa che è, l'Europa che è stata, l'Europa che potrebbe essere. Tu hai raccontato che sei andata a tratteggiare un'Europa che è stata esclusa, che però si sente europea e che presto anche in parte lo diventerà. E che polso hai raccontato dell'Europa che si sente, dell'Europa che si vive là lungo i Balcani, là lungo il Danubio? Beh, il mio percorso nei Balcani è cominciato nel 2009 attraverso altri progetti che ho sviluppato in Bosnia e poi in Macedonia. In questo caso invece, appunto collaborando con Viaggiare i Balcani, l'idea era trasmettere appunto un'idea di Europa culturale, andare alla ricerca dell'Europa che cresce ed esiste al di là dei confini tracciati, confini poi che sono politici ed economici, quella che rimane più nascosta, diciamo. È stata un'esperienza che ancora in progress, che attraverso cui non è che posso trarre troppe conclusioni ancora, visto che il progetto non è finito, io stessa sto studiando e continuando a ricercare riguardo l'itinerario che abbiamo compiuto. Il viaggio è cominciato in Bulgaria, si è sviluppato poi in Serbia, siamo andati anche in Romania, queste le prime tappe fatte nel 2012. L'emozione è stata vedere e conoscere dei posti che avevano come comune denominatore il Danubio e vedere come, nonostante il Danubio scorra, intorno a lui si crea una specie di clima che va cambiando, la lingua, il cibo, la cultura cambia. fino a poi arrivare al Delta, che invece ho esplorato da sola nel 2012 ed è stata un'esperienza veramente interessantissima. Infatti proprio nel Delta vorrei continuare a sviluppare il mio progetto, dato che considero che sia una zona metaforicamente molto potente dell'Europa, perché si situa appunto al limite estremo dell'Europa, la frontiera con il Mar Nero, e sia appunto una metafora molto interessante per spiegare l'Europa di oggi. E sulla mia, sulla nostra pagina Facebook dell'Alta Europa e sulle mie personali abbiamo caricato e pubblicato alcune delle tue fotografie, il Danubio al centro, delle persone, delle barche, ma anche una persona che sta camminando in una sorta di deserto, che deserto non è. Cosa cercavi nelle tue immagini? Che idea dell'Europa volevi dare? Beh, io di solito sono abituata a lavorare con molta lentezza, questo a me piace molto perché mi permette di stabilire dei vincoli molto forti con le persone che abitano i luoghi che vorrei spiegare attraverso le mie immagini. In questo caso invece, dato un po', diciamo, la scusa con cui ho cominciato il lavoro, l'approccio è stato completamente diverso, nel senso che i viaggi e gli spostamenti che abbiamo fatto nei vari posti sono stati veloci. Non ho potuto approfondire come faccio di solito, diciamo, conoscendo e passando del tempo con le persone, però sì, la sensazione è stata diversa, nel senso che ho lavorato tantissimo in questo caso sul paesaggio e le persone che lo abitano. È stato, diciamo, il modo che io ho trovato per poter spiegare il paesaggio che avevo intorno, quindi in questo caso gioco molto con le figure umane piccole immerse in questi scenari molto aperti che le contengono. Più il Danubio avanza, più la popolazione e, diciamo, le città diventano piccole, traccia, diciamo, dei paesaggi molto più aperti, molto più lontani dall'Europa che noi conosciamo, fino a poi arrivare al Delta, appunto, che è uno scenario veramente impressionante, perché, non so, a me ha ricordato, come dice Claudio Magris, e sono d'accordo, visto che è stato il grande ispiratore del viaggio organizzato da Eugenio Berra e poi dopo, diciamo, sviluppato da me, sembra lo scenario di un teatro abbandonato, essenzialmente. Questa è stata un po' l'idea ispiratrice per lavorare nell'ultima parte del progetto. www.camilladematfei.com è il tuo sito per conoscere il tuo e i tuoi lavori. Tu sei laureato in filosofia, quanta filosofia c'è nelle tue foto? O te lo dimentichi quando scatti che sei anche filosofo? Ma sicuramente, è una bella domanda, sicuramente mi influenza tanto, nel senso che l'approccio che ho avuto teorico, estetico, in filosofia mi aiuta, suppongo, a fare delle immagini che hanno a che vedere anche con questo, nel senso che mi interessano delle immagini magari un po' più lente da leggere, più lente da consumare, diciamo, più pensative forse, ecco. E mi aiuta anche magari a sviluppare tutta la parte più teorica dei miei progetti. Anche questa è l'Europa che ci piace. Grazie davvero a Camilla De Maffei e bocca al lupo per il proseguimento del tuo progetto. Ciao e buon sabato. Grazie Crepi, ciao. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Scrivere la nuova Europa. Dal 20 al 25 ottobre 2014 si svolge la 14ª edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che cade nel semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Scrivere la nuova Europa, editoria italiana, autori e lettori nell'era digitale. È il tema che legherà i vari eventi che animeranno la settimana, organizzata da Farnesina Accademia della Crusca, con lo scopo di valorizzare il ruolo del libro e della lettura nelle sue diverse forme, dal cartaceo al digitale, nello sviluppo del concetto di Europa e come strumento di diffusione della cultura e vettore di civilizzazione della società europea. Per saperne di più, andate sul sito dell'Accademia della Crusca, accademiadellacrusca.it, oppure sul sito del Ministero degli Esteri, esteri.it. L'altra Europa. On the road to the European elections. The next European elections will take place between the 22nd and 25th of May 2014. Each country is free to set their election day within this period. Istruzioni per l'uso direttamente dal sito del Parlamento europeo. Manca un mese esatto, sarà il 25 maggio la data in cui saremo chiamati per le elezioni europee, quindi sarà un mese caldo. Già abbiamo parlato delle tantissime iniziative in programma, dei tanti siti per avvicinarsi perlomeno consapevoli, perlomeno preparati, e anche Euronet, anche Radio 24 è presente e vi lanciamo un importantissimo appuntamento, lo facciamo con Gigi Donelli che è qua con noi. Ciao Gigi, ben ritrovato. Ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, dobbiamo segnarci in agenda una data e un orario, giusto? Sì, in questo caso parliamo del 29 di aprile alle ore 14.30, tra le 14.30 e le 15.30, almeno se abbiamo la curiosità di vedere in faccia quelli che potrebbero essere i prossimi, o meglio uno di loro evidentemente, il prossimo presidente della Commissione Europea. Una proposta che arriva grazie ad Euronet e dove Radio 24 è parte attiva, perché sarà un dibattito in diretta radiofonica attraverso la piattaforma Euronet, e quindi dal sito di Radio 24 si potrà ascoltare e interagire, anche perché c'è possibilità di esserci. C'è possibilità di esserci, c'è possibilità, ovviamente anche questo fa parte un po' della sperimentazione europea. Come funziona? 15 radio europee, tra cui Radio 24, questo poi è il network appunto di Euronet Plus, incontrano i quattro candidati che sono a Bruxelles, con Jean-Michel Bos, che è il coordinatore di Euronet Plus a Bruxelles. Noi giornalisti delle varie radio che partecipiamo con le nostre domande, i temi, anzi in questi giorni siamo stati alle prese proprio con questo disbrigo di organizzazione, e gli interlocutori per rispondere. È chiaro che siamo di fronte anche a personalità molto diverse tra loro, perché alcune sono note, altre credo che lo siano molto meno. Ecco, ci puoi fare le figurine dei quattro? Chi sono? Allora, le figu. Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, che per chi avesse la memoria corta è quello che si è preso del capo da Berlusconi e le conseguenze. Direi che basta. Guy Verhofstadt, liberal democratico, in Italia è meno noto perché i liberal democratici non ci sono di fatto come struttura politica. Lui è belga, è un politico appunto di lungo corso belga. Jean-Claude Juncker invece è più noto, lussemburghese, una figura diciamo istituzionale dell'Unione. Lui rappresenterà il Partito Popolare, quindi rappresenterà invece un blocco molto importante anche nella politica italiana, e in qualche modo potremmo dire outsider generazionale, questi signori sono tutti classe 53-54, invece è Ska Keller. Ska, che sta per Franziska, tedesca, brandeburghese, classe 1981, rappresenta i Verdi. Ecco, Ska Keller tra l'altro è l'unica donna candidata, e diciamo questo è il quadro. Quindi sicuramente tre personalità più che rodate, più che presenti da lungo tempo nel panorama politico europeo, è una figura, peraltro Ska Keller è tutt'altro che una novellina, visto che è presente appunto nell'ultima legislatura, è una figura importante del movimento politico verde. Ecco, queste sono le figurine. A un mese dalle elezioni i giochi sono assolutamente ancora aperti, non è solo la gara tra chi andrà a votare e chi non andrà a votare, certo, perché questo è veramente il primo aspetto fondamentale, e poi insomma anche i sondaggi stessi sono ancora molto aperti. Sì, poi c'è tutto il grande tema dell'antieuropeismo, del rifiuto dell'Europa, che naturalmente interroga un po' tutti noi, a parte nel tuo programma, ma voglio dire noi europei, ed è un po' il grosso interrogativo. Sul piano puramente teorico la gara dovrebbe essere a due, tra Partito Popolare Europeo e Socialdemocratici, ma questo banalmente perché questo è quello a cui siamo abituati, dopodiché staremo a vedere. Ricordiamo allora il 29 aprile dalle 14.30 a radio24.it, poi ricordiamo ancora, cogliamo l'occasione, ogni giorno Europa 24 alle ore 14 e alle ore 21.30, insomma Radio 24 crede nell'Europa, noi ci siamo. Noi ci saremo senz'altro. Grazie Gigi, ciao e buon sabato. Grazie a te, a presto. Europost-it. Elections2014.eu, il sito ufficiale per le elezioni europee. Volete saperne di più sulle elezioni europee? Su come si vota? Su quanti sono i cittadini coinvolti? Quali sono i candidati alla presidenza della Commissione europea, gli europarlamentari e cosa saranno poi chiamati a fare? Per rispondere a tutte le vostre domande c'è una voce ufficiale, quella del sito per le elezioni europee, elections2014.eu, creato sotto il cappello del sito ufficiale del Parlamento europeo. Lì trovate video, foto, statistiche, spiegazioni, numeri e tutto quello che c'è da sapere per votare e poi seguire le proiezioni dopo il voto. Leggete tutto e correte ai seggi il 25 maggio. Sonorità libanesi per introdurre il prossimo argomento. Ok, c'è l'Europa della burocrazia, l'Europa del palazzo. Ci sono le elezioni europee che andranno a definire chi ci guiderà. E poi ci siamo noi dell'altra Europa, che vi vogliamo raccontare anche l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità, no? Tante volte c'è il peso di ce lo chiede l'Europa, e poi c'è l'Europa anche che offre fondi, che offre risposte, l'Europa che c'è anche là dove non te lo aspetti. E appunto in questa idea di Europa delle opportunità vi vogliamo presentare un progetto importantissimo. Si chiama Archeomed Sites ed è un progetto per tutelare il patrimonio culturale di alcuni siti di importanza archeologica e culturale, tanto da essere nominati come punto di interesse dell'UNESCO. Progetto che è stato rifinanziato per il prossimo per i prossimi sei anni, 2014-2020. Diamo il benvenuto a Michele Colavito, capo progetto di Archeomed Sites per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Ciao Michele, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buon sabato a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, nessuno meglio di te può spiegarci, può introdurci in Archeomed Sites. Di cosa si tratta in pratica? Dacci una fotografia di chi siete, di cosa fate, di quali sono i paesi e i siti coinvolti. Sì, dunque, allora intanto lasciami dire che per passione e per formazione, insomma, sono abituato a pensare all'Europa come un'opportunità da cogliere ogni giorno. Questo lo diciamo e lo condividiamo assolutamente. Un'opportunità che però spesso fa rima con sfida. Archeomed Sites è un po' una sfida che la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha voluto cogliere nel quadro del programma EMPI Bacino del Mediterraneo, che fa parte della componente di cooperazione trasfrontaliera della politica europea di vicinato. Sì. E il Ministero per questo ha voluto coordinare un partenariato complesso ma assolutamente ricchissimo e portatore di competenze qualificate, intanto interagendo con due istituzioni nazionali della sponda sud del Mediterraneo, e che sono il Ministero della Cultura del Libano e l'Istituto Nazionale del Patrimonio tunisino. E la componente però è una componente ricca anche a livello italiano, perché abbiamo due soprintendenze per i beni archeologici del Ministero, quelle per le province di Cagliari Oristano e per le province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, tre comuni che sono Firenze, Siena e Carbonia in Sardegna, e Federculture è un'organizzazione non governativa che ricerca e cooperazione, insieme poi all'Università di Sassari, che fa parte anche del partenariato. Il progetto si pone l'obiettivo ambizioso di creare una rete nel Mediterraneo, sì, nel bacino del Mediterraneo, di operatori, di istituzioni, di amministrazioni, ma anche di cittadini, perché noi siamo convinti che, se è vero come è vero, che soprattutto nei partner della sponda sud c'è una coscienza sempre più forte dell'importanza di essere protagonisti dei cambiamenti, delle trasformazioni dei propri territori. Queste trasformazioni, questi cambiamenti passano anche per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, che è ricchissimo. I siti coinvolti in questo progetto sono di assoluto interesse, tanto che appunto sono siti UNESCO da quasi 30 anni ormai, perché si tratta dell'area archeologica di Tiro e Al-Bas in Libano, di Cartagine e Kerkouan in Tunisia. Poi ci sono ovviamente i siti archeologici di Pestum e Veglia in Campania, e il sito di Monte Sirai e Carbonia in Sardegna. Noi vogliamo mettere insieme le competenze migliori per poter garantire a questi siti, ai contesti urbani in cui agiscono questi siti, ai contesti urbani intorno a questi siti, dei piani di gestione che possano intanto valorizzare questi siti. E in questo vogliamo che la popolazione, i cittadini e i giovani siano i primi protagonisti. Certo, quindi comunque una sorta di, intanto appunto, scambiare queste conoscenze e queste buone pratiche per la gestione e la conservazione del sito, viene da dire quasi ovvio, spesso non lo è, però è fondamentale. Ma poi c'è uno step successivo, che è quello, come hai appena detto, di riqualificare i centri urbani circostanti, sensibilizzare la popolazione affinché sentano loro questo patrimonio. E poi c'è tutta quella relativa alla formazione dei giovani e alle opportunità di lavoro che di conseguenza sorgono, giusto? E per far questo noi appunto utilizzeremo tutti i canali di comunicazione che tanto peso hanno avuto poi nei processi di trasformazione anche di questi paesi. Ci sarà un sito internet, archeomedsites.com, utilizzeremo i canali Facebook, Twitter, Instagram, perché noi vogliamo appunto avviare campagne di informazione, formazione, ma anche sensibilizzazione, perché la consapevolezza della ricchezza di questi territori e la consapevolezza che la valorizzazione di questa ricchezza possa costituire veramente il motore per il cambiamento, per lo sviluppo sociale ed economico di questi territori e dell'intero bacino del Mediterraneo è assolutamente imprescindibile. Mi permetto anche di ricordare che noi siamo alla vigilia di due appuntamenti importanti per il nostro paese e in prospettiva ovviamente anche per i rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, che sono intanto il semestre di presidenza dell'Unione Europea. Sappiamo che l'interesse verso l'area del Mediterraneo è tanto più presente in questo momento quanto probabilmente mai nel passato, e io credo che l'Italia debba porsi un po' a capo di questa rivoluzione di pensiero e che sposti un po' a sud anche l'attenzione verso politiche di cooperazione. E poi un altro assolutamente imprescindibile è l'avvio della programmazione 14-20 dei fondi strutturali comunitari. Noi vogliamo che processi di sviluppo interessino il nostro paese, innanzitutto questo è imprescindibile, ma vogliamo che l'intero bacino del Mediterraneo, con tutti i paesi anche mediterranei europei, passi anche attraverso la programmazione dei fondi strutturali per imprimere una vera svolta poi nella programmazione di questi fondi, e perché poi il bacino mediterraneo non sia solo al centro di cronache negative, esatto, ma che inizi ad essere anche un ritorno un po' al passato e quindi il centro di processi, dinamiche culturali che inneschino anche sviluppo sociale ed economico. Esatto, è il gusto del bello al centro di tutto questo. Facciamo nostro il tuo auspicio, un grazie a Michele Colavito, capo progetto di Archeomed Sites. Ciao Michele, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Ciao. Un Europostit e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Formazione online su Natura 2000. Nell'ambito del progetto Fahrenheit, fare rete Natura 2000 in Italia, la Regione Lombardia ha realizzato con il contributo del programma europeo Life Plus dell'Unione Europea un corso online di formazione a distanza su Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Il corso gratuito è rivolto agli amministratori pubblici lombardi con l'obiettivo di aumentare la conoscenza di Rete Natura 2000, illustrare i benefici per il mondo agricolo e rurale e restituire ai territori, inclusi nella Rete Natura 2000, il riconoscimento del loro valore per fermare la perdita di biodiversità. Il corso è disponibile online dopo un accesso con le credenziali che possono essere richieste via mail. Trovate maggiori informazioni sul sito del progetto Fahrenheit. La mia terra vale.it. L'altra Europa. Where is journalist right now? What is happening? Am I a journalist? Yes, I am, one of the best. But can we still use the word journalist? Once upon a time there was a scoop, something that can only be found on a newspaper. But today everything is different. All you have to do is be in the right place at the right time and have one of those smartphone. But what's so smart? Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa. Quello che state ascoltando invece è lo spot del Festival Internazionale del Giornalismo che si terrà a Perugia e da dove saremo in diretta sabato prossimo, quindi segnatevelo se siete in zona, vi aspettiamo per questa puntata live dell'Altra Europa. Saremo in diretta dalle 10 alle 11 dall'hotel Brufani di Perugia, insomma vi aspettiamo. Tutte le informazioni le potete ovviamente trovare sul sito festivalgiornalismo.com, dove come sempre sarà presente la rappresentanza in Italia della Commissione Europea con diversi eventi, una presenza importante perché è comunque l'Europa che si racconta, l'Europa che si confronta con chi l'Europa la deve raccontare, cioè i giornalisti. Di tutto questo ne parliamo con Evelina Jelenkowska, capo del settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina, buon sabato e ben ritrovata. Buongiorno. Allora, appunto, come ho detto, la rappresentanza in Italia, quindi la Commissione Europea, sarà presente al Festival, una scelta che si ripete per forse il quarto anno? Quarta volta, saremo presenti la quarta volta, questa volta con tre appuntamenti, due workshop e un evento, un spettacolo. Mm-hmm. perché c'è anche il desiderio, a poche settimane tra l'altro delle elezioni, no, di farsi conoscere. Un problema dell'Europa è quello del raccontarsi. I giornalisti giustamente sono l'anello di congiunzione tra l'Europa e i cittadini, quindi ci sono questi workshop dove sono anche formativi, quindi eventi proprio per dare un po' di strumenti agli interlocutori. Sì, uno di questi è proprio par excellence per formare i giornalisti. Stiamo offrendo entrambi i workshop, avranno anche crediti per i giornalisti per la formazione, ed è un appuntamento molto importante per noi come rappresentanza, un momento nell'anno importante di confrontarci con i nostri interlocutori che sono i giornalisti, per sentire le loro idee e per cercare di trasmettere un po' anche il nostro punto di vista. Il primo appuntamento dedicato appunto alla formazione sarà quello di giovedì il 1 maggio, sì, alle ore 15, esatto, dove parteciperemo e dove parleremo con i giornalisti, con Lorenzo Robustelli di IU News, con Chiara Longo Bifano di Rai News 24, con Gigi Donelli di Radio 24, e da parte nostra ci sarà Angel Beremlinski, il nostro addetto stampa. Mm-hmm. E si tenterà di dare risposta a domande quotidiane: cos'è il semestre europeo, come funzionano le istituzioni, come destreggiarsi in mezzo alle diverse fonti di informazioni. Sto leggendo dal sito, insomma, un po' l'abstract di quello che sarà questo Europa in formazione. E il secondo appuntamento invece è venerdì alle 11.30, dove sarò presente anch'io. Dove sarai presente anche tu, Evelina, anche io, e sì, poi ci sarà Giovanna Pancheri di Sky TG24 e poi anche un quarto ospite che ora non ricordo. Sì, del fact checking, okay, perché abbiamo Fact Check EU. Uh-huh. Questo volevamo dedicarlo, questo appuntamento, un po' a smentire vari miti e varie leggende che sono cresciute nel tempo attorno al tema Europa. Credo che è uno dei temi più ricchi di appunto delle informazioni che non sempre sono esatte, sono un po' manipolate, quindi noi inviteremo tutti chi parteciperà al workshop di andare sempre a verificare i fatti, e per questo abbiamo questo ospite che si occupa proprio di quello, e ne parleremo con la corrispondente del Sky 24, corrispondente da Bruxelles, che vede, diciamo, l'altro lato un po', e poi ci sarò anch'io a rappresentare il lato istituzionale, diciamo. Certo. Quindi cercheremo di vedere che cosa effettivamente è vero, che cosa non è vero, e come andarlo a verificare. Europa, orgoglio e pregiudizio è il titolo, sottotitolo Leggende, miti, bugie, verità sull'Unione Europea. E infine alle 11, quindi di sabato mattina, subito dopo la diretta dell'Altra Europa, ci sarà uno spettacolo, La vita è un viaggio e l'Europa è casa nostra, prove di messe in scena con Beppe Severnini, che racconterà a suo modo l'Europa di oggi. Sì. Questo è un appuntamento un po' inconvenzionale, diciamo, anche per la nostra partecipazione. Vogliamo approcciare il tema Europa in un modo un po' più diretto, un po' più ludico, con tanta musica, quindi temi seri, ma anche un'opportunità, spero, piacevole di trascorrere questa oretta con l'Europa e con la musica. Una nuova forma di narrazione dell'Unione Europea, questo è il tentativo di Beppe Severnini, e saremo lì per vederlo in diretta. Festivaldelgiornalismo.com, vi ripeto il sito per conoscere l'intero programma e in particolare gli eventi promossi dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Grazie Evelina, buon sabato, ci vediamo a Perugia. Grazie. Sabato prossimo, ciao. Ciao. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can save. Money, l'Europa delle opportunità, alla fine passa da lì, passa anche dai dai soldi, dai fondi che vengono messi a disposizione. Si parlava di miti e di leggende, i fondi europei fanno parte un po' di questa categoria. Ci sono, non ci sono, si spendono, non si spendono. È vero che non vengono richiesti, è vero che è difficile ottenerli. Tante di queste... tanti di questi dubbi trovano una risposta in un bel libro, si chiama Progettare in Europa, tecniche e strumenti per l'accesso e la gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea, è scritto da Marcello D'Amico, avvocato docente di politiche sociali europee nella Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano. E diamo il benvenuto a Marcello D'Amico che è qua con noi. Ciao Marcello, buon sabato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, proprio la domanda diretta, questi fondi, cioè, è facile o è difficile ottenerli? Beh, bisogna prima di tutto conoscerli e quindi a quel punto si riesce anche ad ottenerli. E questo è un po' il senso anche del libro. Come si diceva, ci sono tanti miti che bisogna sfatare. Sono soldi che sono messi a disposizione per gli enti pubblici, per le associazioni, e sta a noi avere la capacità di utilizzarli e utilizzarli bene. Mm-hmm. Tu lavori con gli enti pubblici, lavori con le associazioni, lavori con insomma varie categorie, cerchi di instradarli un po', di raccontare, di accompagnarli, di un po' essere un po' una bussola anche nella burocrazia. E, quindi sei fondamentale, ed è fondamentale questo lavoro di conoscenza. E in questo periodo, tra l'altro, sono settimane calde, vero? Perché sono proprio settimane di pieno lavoro, sia perché appunto dal 1 gennaio sono disponibili i nuovi fondi a gestione diretta, quelli quindi gestiti direttamente dalla Commissione europea, ma poi anche perché proprio in queste settimane siamo nel pieno della scrittura dei programmi operativi regionali e nazionali che decideranno poi come questi fondi potranno essere utilizzati a livello locale. Quello che io dico sempre è che sicuramente per progettare bisogna avere delle buone tecniche di progettazione, ma bisogna anche conoscere l'Unione Europea, perché uno degli errori è proprio quello di pensare di poter utilizzare questi soldi senza avere conoscenza delle politiche e delle dimensioni dell'Unione Europea. E quindi questo non è solo un approccio tecnico quello ai fondi europei, non si tratta solo di scrivere, ma si tratta anche banalmente nella scelta di un programma finanziario. È necessario conoscere la politica, perché molto spesso si sbaglia a scegliere il programma di finanziamento. L'idea è buona, ma andrebbe presentata su un altro programma di finanziamento. Mm-hmm. E il tuo libro Progettare in Europa, edito da Erickson, non parli ovviamente agli addetti ai lavori, parli a persone interessate. È semplice, ci sono veramente tante dritte, però forse è sempre meglio anche affidarsi a chi di professione fa questa cosa, ma sto dicendo anche magari semplicemente rivolgersi a uno Europe Direct. Comunque ci sono gli strumenti per essere orientati, per essere indirizzati. Assolutamente, assolutamente. Il libro sicuramente è quello che ho voluto fare, nascendo proprio anche dall'esperienza dell'attività di informazione e formazione che faccio sulla progettazione europea, e ho voluto essere molto pratico, infatti molto ricco anche di indicazioni concrete e pratiche sia nella fase di progettazione che quella di attuazione. E poi sicuramente bisogna conoscere le realtà locali che si occupano di questi temi, sia quelle istituzionali, perché comunque appunto c'è anche la rete Europe Direct, ci sono anche le rappresentanze della Commissione, del Parlamento in Italia, c'è il portale dell'Unione Europea che è quello che dico sempre, che è la principale fonte informativa. Non si può pensare di progettare senza conoscere il portale dell'Unione Europea. Quindi ci sono le fonti informative. Il problema è che spesso noi corriamo dietro ai bandi, non scegliamo di progettare a livello europeo. Conosciamo per caso un bando e cominciamo a correre. È chiaro che quella è un approccio che limita le opportunità di finanziamento. Bisogna iniziare a pensarci per tempo. E Marcello, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi voglio continuare a parlare con te affrontando anche l'argomento un po' più specifico. So che ti occupi anche di fondi in particolare dedicati all'inclusione, alla parità di genere, forse un altro ambito del tuo lavoro, ma mi sembra assolutamente interessante. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, siamo sempre insieme a Marcello D'Amico, autore del libro Progettare in Europa. E Marcello, tu collabori anche con un'associazione milanese, l'associazione IRENE, Iniziative, Ricerche e Esperienze per una Nuova Europa, ed è una delle, delle tue attività legate appunto anche alla ricerca di fondi per bandi legati all'occupazione, all'inclusione, alla parità di genere. L'Europa per fortuna è anche questa. Diciamo, è la parte poco conosciuta dell'Europa, perché sentiamo sempre parlare di quella economica. In realtà proprio anche i nuovi finanziamenti, il nuovo quadro finanziario ci fa sperare bene nella possibilità di poter avere a disposizione maggiori fondi, perché la Commissione europea ha anche posto alcuni vincoli per l'utilizzo anche non solo dei fondi a gestione diretta ma anche di quelli strutturali. Ad esempio appunto almeno il 20% della dotazione di ciascun programma operativo regionale dovrà essere dedicato al tema proprio dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà. Avremo anche un programma operativo nazionale dedicato al tema dell'inclusione. Ci sarà anche un programma operativo dedicato alle città metropolitane e nell'ambito delle risorse del FESR anche un asse sviluppo urbano che si occuperà anche delle sfide sociali, che sono una delle questioni che sono chiamate a risolvere le città. Quindi sicuramente questo nuovo periodo di programmazione conferma l'impegno dell'Unione Europea anche per le politiche sociali, e di fatto nella mia esperienza ho proprio iniziato a occuparmi di questi temi proprio sui temi delle pari opportunità, del contrasto alla violenza nei confronti delle donne e dei minori, proprio su dei progetti europei che mi hanno dato poi la possibilità di fare di questo il mio lavoro. Con l'associazione lavoriamo appunto in coordino una rete anche a livello europeo, e noi abbiamo presentato dei progetti che sono stati finanziati dalla Commissione anche sul programma Daphne, che ci hanno consentito ad esempio di poter svolgere le attività di sensibilizzazione al Parlamento europeo a Bruxelles e nei paesi di nuova adesione, che chiaramente hanno anche una legislazione che è ancora un po' più lontana da quelli che sono gli standard europei, ma soprattutto ci consente di scambiare opinioni, buone pratiche, soluzioni, perché di fatto molto spesso non è facile trovare soluzioni ai problemi sociali. Quindi sicuramente i progetti europei rappresentano anche un'opportunità sia finanziaria, perché comunque consentono di poter realizzare delle iniziative, ma anche di sviluppo per le associazioni che ne fanno parte. Perfetto, grazie vero Marcello. Ricordiamo irene.mi.it per chi volesse maggiori informazioni su questa rete, oppure ericsson.it, che è la casa editrice di Progettare in Europa, scritto da Marcello D'Amico. Ciao Marcello, buon sabato, grazie, complimenti per l'ottimo lavoro. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Happy Voting Europe. Happy Voting è il nome di una campagna divertente lanciata dalla Lega dei Giovani Elettori, un'associazione giovanile europea che vuole sensibilizzare i giovani all'importanza del voto europeo del 25 maggio. L'idea di partenza è un video divertente che ha come colonna sonora la famosissima canzone Happy, ormai diventata un fenomeno virale con i suoi video girati dagli utenti della rete. La League of Young Voters ha realizzato un video girato in varie città europee, dove a ballare e cantare sono singoli cittadini, giovani lavoratori delle istituzioni di Bruxelles, europarlamentari, uomini d'affari, tutti che invitano a votare con felicità e a ritmo di musica. Per partecipare, conoscere la campagna e condividere il video, andate su happyvoting.eu. I romani non usavano le carte stradali, né le mappe. E d'altra parte, ancora oggi, i nomadi ce lo insegnano. Le mappe non servono a orientarsi, servono a sognare il viaggio nei mesi che precedono il distacco. Le vie romane non erano soltanto uno spazio di transito, erano proprio canali di socialità, arterie pulsanti in cui fluiva incessante la linfa densa, vischiosa della vita in comunità. Ai bordi delle strade si moltiplicavano fattorie, allevamenti, strade che hanno fatto l'Europa. Quello che state ascoltando è un estratto di uno spettacolo, Il Ratto d'Europa, uno spettacolo che è un progetto che ormai è attivo da più di un anno. Il Ratto d'Europa, questo spettacolo coprodotto dal Teatro di Roma e ERT, Emilia Romagna Teatro, questo progetto teatrale ideato e diretto da Claudio Longhi, sarà in scena al Teatro Argentina dal 29 aprile all'11 maggio, una chiave ancora nuova per raccontare, per conoscere l'Europa. Credo che qui la metafora scelta sia stata quella dei giochi senza frontiere. No, non sorridete, ma i giochi senza frontiere sono stato un format che hanno creato l'Europa. Con noi c'è Claudio Longhi per conoscere meglio l'intero progetto. Ciao Claudio, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Buongiorno. Vi siete divertiti con i giochi senza frontiere, giusto? Ci siamo divertiti molto e speriamo che si diverta anche il pubblico. Tenterete ancora una volta, perché il progetto, il Ratto d'Europa, è un progetto veramente multiforme. Lo abbiamo incontrato e incrociato nel cinema, nei giochi, nelle realtà con i bambini. E poi c'è questo spettacolo teatrale, una sorta di storytelling dell'Europa. Cosa portate in scena questa volta al Teatro Argentina? Questa volta portiamo in scena il risultato del viaggio che abbiamo fatto a Roma nell'arco di più di un anno. Sì. E abbiamo raccolto i materiali che sono stati prodotti in tutti i laboratori di drammaturgia che sono stati attivati qui in città. Questi materiali, uniti a materiali letterari, a materiali geografici, politici, scientifici che abbiamo raccolto con le nostre letture, sono stati montati in questo copione Monstrum che debutterà fra qualche giorno al Teatro Argentina, per l'appunto, ed è un modo per raccontare l'Europa. Mm-hmm. Un viaggio nel tempo anche, l'estratto che abbiamo sentito appunto parla delle strade che hanno creato un po' le arterie principali che nella storia appunto hanno raccontato il percorso europeo e poi questa scelta dei giochi senza frontiere, quindi di sfide forse anche attuali per continuarlo questo percorso europeo. Ma infatti il nostro cammino è un cammino nello spazio, è un cammino nel tempo. Quando parliamo di Europa da due punti di vista, parliamo di Europa come continente, come unità culturale che affonda le proprie radici nell'antichità preistorica da tanti punti di vista, e poi c'è l'Europa Unione Europea, l'Europa di oggi. Sì. Il mito ci ha fatto da fil rouge, da trait d'union. Europa è stata rapita, abbiamo cominciato questa ricerca di Europa. Per un verso il mito ci ha fatto da trait d'union, per l'altro Giochi senza frontiere ci ha fornito una sorta di degenerazione, rivisitazione del mito in chiave contemporanea, per l'appunto. In fondo anche Giochi senza frontiere è stato un mito per certi spettatori di 20-30 anni fa, esatto. Diciamo. E poi si gioca anche con le parole. Peter Piper prese un sacco di peperoni sotto aceto. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, how many pickled peppers did Peter Piper pick? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, how many pickled peppers did Peter Piper pick? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Claudio, anche il scioglilingua per creare spirito europeo. Sì, in fondo al centro di questo spettacolo c'è l'idea che occorre superare una serie di prove, proprio come era in Giochi senza frontiere, per riuscire a salvare l'Europa dalla crisi in cui l'Europa sta precipitando. E fra i mille giochi che si attraversano ci sono anche i giochi di lingua, i giochi di abilità linguistica, di traduzione e scioglilingua. Mm-hmm. Alla fine di questo lungo viaggio, Claudio, che idea ti sei fatto dell'Europa? È una cosa facile da raccontare? Non è una cosa facile da raccontare, è una cosa che inizialmente, quando viene affrontata, prende tutti in contropiede e lascia straniti, ma poi mano a mano che si procede nel viaggio appassiona. Questa è una cosa che ho potuto riscontrare sia nell'esperienza modenese che nell'esperienza romana. Diffidenza all'inizio e tanta partecipazione mano a mano che si andava avanti. L'appuntamento quindi è il 29 aprile, ci saranno anche degli special guest, forse l'ex ministro Kyenge che salirà per prima sul palco portando la propria testimonianza. Tutte le sere abbiamo un ospite che viene a portarci una propria visione dell'Europa, a raccontarci una propria visione dell'Europa, e la prima serata sarà per l'appunto l'ex ministro Kyenge che viene a raccontarci all'interno di questa sorta di Euro Talk Show che è calato dentro questa Mezza pop in Giochi senza frontiere, Ratto d'Europa. Uh-huh. E altri nomi, l'allenatore della nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto, Ijaba Scego, la scrittrice, il grande compositore Ennio Morricone, Luciano Violante, insomma nomi importanti, testimonianze forti e vere di quello che è il pensiero europeo oggi. E anche aperte a svariate discipline, a svariati orizzonti, perché di Europa si può parlare in tanti modi. Certo, e voi l'avete dimostrato col vostro bel progetto. Il ratto d'Europa.it è il sito per conoscere tutte le informazioni. Ve lo ricordo ancora, l'esordio il 29 aprile presso il Teatro Argentina a Roma. Ciao Claudio, grazie e buona Europa a te e a tutto il tuo gruppo, siete in tanti, quindi insomma dividi questo saluto con tutti gli altri. Ciao, grazie. Grazie mille. Finisce qua questa puntata dell'Altra Europa. Vi ricordo radio24.it, il sito da dove potrete riascoltare la puntata e trovare anche tutti i riferimenti legati agli Europostit, oppure euronetplus.eu. Le coordinate per le nostre piazze virtuali sono sempre chiocciola euronetplus r24 oppure chiocciola Federico Taddia su Facebook e su Twitter. L'appuntamento è a sabato prossimo, ancora ve lo ricordo, alle 10, la diretta dal Festival del Giornalismo di Perugia. Un grazie a Katia Marinelli e a Ina Margherita che con me hanno scritto la puntata, a Carmelo Lauricella oggi alla parte tecnica. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.